deve fare massaggi, no? I massaggi deve fare per forza. Cioè vediamo le stelle. Tony, è così, è così. Se tu guardi il video, ti fanno i massaggi dove c'hai il dolore, dalla schiena, dal bacino verso le gambe, quello dove è il dolore. Loro da lì ti fanno i massaggi, poi ti mettono queste acupuntura. L'acupuntura cosa serve? Per fermare l'infiammazione? L'acupuntura è per dove è il nervo, cerca il nervo. E praticamente ti annienta il nervo, così tu col nervo non ti senti, c'è dolore. Sì, sarà la gripe sicuramente. Ma vedi, io mi auguro che vada bene, cazzo, che l'odore mi rubuca, a me mentale sta a Luis. Aspetta un minuto, Manuel, sto parlando, chiamato al telefono, 2 minuti soltanto. Ehi, fai pure, fa. Mia mamma. Già fatto, eh. Cazzo, la sirena, l'ambulanza deve arrivare. Ma anche tu la senti, la sirena? E per forza la antenna, il servo in trasmissione è quello. Sì, boh, che te tocca a me? Non lo so più, che... Ma guarda che cosa è più. Ehi, boh, boh. Quella va in trasmissione, per quello la senti. Ah, che mi scende tutto il barazzo. Oi, oi, oi. Anche tu ce l'hai? Non so chi, no. E chi ero? Sarà buon pugno. Attenzione, Pompuzzi. No, a me non mi sente. Chi è con la sirena? Avanti. Chi è con la sirena? Ma io ce l'ho tenuto piccolino, non mi sentono a me. Pompu, tu sì. Boh. Vabbè. Boh, boh. Chi che guarda la radio come tra due? Questo sono io. È più veloce la lui. Anche la mia è la corsa. Kawasaki. Chi è, Bu? Ehi, se vuoi entrare già entra. Riprendi, riprendi. Ehi, è Gio Maria. Ogni tanto entra e pari. Ehi, c'ho gente, dai, rientro dopo. Ok, Gio Maria, vabbè, già siamo qua. Capito, ma dov'è? Ehi, Gio Maria, ok, dai. Ehi, già siamo qua, Gio Maria. Ui, che ti vuoi portare i nuovi? Tu pensa che arriva a Londra quando alle 4 e cosa fai? Per non stare lì a correre, capito tu? Anche camminando piano, 60-70, a passeggiare se mandi piano piano, anzi sono più tranquilli con la macchina pure. Cioè arrivi sempre, fai che ci metti 2 ore, cazzo, ma arrivi a Londra, dentro, bubizzo. Ma che mi ha fatto lo bagno? Che non vede mare Kibi? Ah boh, non vede. Ma così, si mette la montagna sotto Monte Misano. E se dovevo nello lago? C'è mai lago, qua. Io pensavo che era il fiumicciato, le chi? Sì, come le spiagge di Funi, a venne in mare, boh. Uia. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu E che ci vuoi fare? Beh, mio figliolo si chiama Prezzente, all'usori. Ah, Manuè. Ehi, Astone. E come non sto riprendendo? Cosa è successo? Mi si era girato lo squarcio, non ti sentivo. Come fa a girare lo squarcio da solo, boh? No, stavo passando lo straccio, lo spolverino. Accidenti, lo spolveri pure tu. E lo burrando della Galaxy, che viene un poco di più, vado. Mi devo fare anche io il mobile che copre tutto. E quindi quella di scuola va anche sopra la 27? Sì, quella lì sì. Vabbè. E così è un quarto d'onda, Non lo so, il biglietto, te l'ha lampato, tu. No, c'è più fatto. Non lo so se è un quarto d'onda. Sicuramente sì. Perché è piccolina. Un quarto d'onda sicuramente sì. Comunque, provato tu a sentire. Sì, con Maracchino ci sente. Non si sente? Sì che si sente. Sì, ma la gente che murla, lo sentivi? No, non c'è nessuno al momento. E cosa intendi? Guadagno intendi allora? Eia. Ma Guadagno lo sento lo stesso, Tony. Anche se devi vedere se senti le voci, se senti parlare, modulare. Ho parlato col Galaxy, con l'antenna mia. E quello di scuola nell'altro lo sentivo. Lo sentivi? Lo sentivo, chiaro che la voce mia sentivo. E allora, cioè, beh, te lo sto dicendo, se lui, tu li sistemi il PL, adesso quando è, sistemiamo quel il cavo lì e lo puoi commutare, puoi accendere uno e l'altro. Eia. Tanto se non sbaglio, abbiamo il tubo che c'è dove abbiamo fatto il taglio noi o no? Lì il taglio, lo togliamo da lì il PL, dove abbiamo fatto il taglio, no? Lo specchietto a un fianco. Lo togliamo da lì il cavo. Vabbè, sempre l'antenna devo mollare però. Sempre sopra, sì, lo devi smontare, con la chiave, quella chiavetta brugola che ci avevi dato. Si tolgono le due viti, c'è il cappelletto e c'è il PL. Poi lo stacchi, a saldare lo saldi lì davanti. Senza stare lì a staccare tutto il cavo. No, che non c'è problema perché lì. Ho la prolunga voglia di 20 metri, cazzo, va, ma attacco, porto il saldatore fin là. Appunto, senza staccare tutto il cavo sto dicendo. Stacchi solo il piede dal connettore, poi si scende un po' il cavo dal tubo e si salda lì davanti. Meglio. Va, peccato qua. Beh, cosa ti ha detto per i capelli? Ma, altro che già vanno bene, già che sono subito. Comunque la massa di rivaria, me ne fatti 3 millilitri, me ne fatti. Ti gioco di zero di andare bene. Ah sì, non te le tagliava, Tony. Ma cosa dicevi che erano i longhi, che se non le tagliava? Boh, hai fatto il gabuduio, la massa di rivaria. Che cazzo di gabuduio, chi ti l'ha giurito che non si chiamano sì. A te, te faccio con lo scalpetto che ti ha lasciato in testa, gà. Vai, che andare bene bene così. Mi pare cazzo cotto, il capo di lampadina va. Ma cosa c'è di zero che vanno bene? Cazzo, come tu prima erano i video, no? Oggi in Sardegna 81 positivi. E a Santiago d'Oro. Grazie al governo che fa entrare tutti questi lombardi, laziali e più extracomunitari. L'ho scritto anche su Facebook. Questo governo parassita, ha scritto. Conte, vattene a casa. Se l'hanno denunciato pure a Conte, gli hanno mandato una lettera. Ma ancora non l'hanno fatto nulla. Sì, vedrà la Virini già se ne anda a casa, tranquillo. Cazzo, è fendente a cane e pulci, no? Cazzo, si sono contaminati tutti quanti. Cioè, a Salvini l'hanno denunciato e lo vuole condannare perché ha fermato una nave che c'erano, quanti erano, 100 di questi immigrati. Cazzo, mi racconti cosa bisogna fare che ha salvato in casa tutti quanti gli italiani, 60 milioni di italiani. Boh. Vedrai che se succede torna a questo casino che tornano a chiudere tutto, vedrai il casino che succede torna. Basta uscire tutti, mica si può arricchiare tutti. In galera non vediamo, voglio vedere. Non ci credi tu che vedrai che a settembre-ottobre tornano a chiudere tutto. Te lo dico io, va. Anch'io sto pensando. Boh, chissà cosa c'è sotto sotto, ma non è. Io non vi credo questo coronavirus comunque, Boh. Ma guarda, io sinceramente che cosa non vi grido. Boh. Ci sarà qualche altra cosa di sotto. Sì, perché allora le persone muoiono ogni giorno. In tutto il mondo ne muoiono centinaia e migliaia e milioni, quindi siamo miliardi, quindi gli anziani che hanno molte patologie, se uno muore di infarto è morto di coronavirus, uno muore incidente, coronavirus, tutto ammirano lì loro, ormai è una cosa fissa, d'accordo, i dottori tutto quanto che vanno a tacere, quindi se la miglia è alla luce non mi credo più. Io ho le patologie che ho, Manuè, a me devo pizzicarmi il lavoro, perché io sono più soggetto. Allora, per quello che ho io, sono uscito 7-8 volte al giorno, quando è marzo e aprile, e me cosa mai non faccio mai nulla. Ma io lo stesso, io la mascherina non ne ho mai messo. La mascherina la mettevo solo quando andavo in negozio e mi ne avvocavo subito. Come cazzo fa? Io non ce la faccio neanche a tenere la mascherina. Pensa tu, mi mancava l'aria. Poi, non è morto un politico con questo coronavirus, con tutti i vizi misurati in politica, non è morto un calciatore, non è morto un cantante, ma che ministro è a mezzo? E dallo Sannietti cosa si offendi, ma capisci? Adesso che ci sono questi vaccini, dice bisogna fare i vaccini perché sennò a lavoro non ci andate, qui e là, ma pigliate per il culo, vai. Sì, Luca Sire, chi ce l'ha? Io di quella mondezza di certo non le voglio, un vaccino. Dici tu non vai a lavorare, che cazzo me ne ha fatto? Mi manca a poco, me ne sono già in pensione, vai, ci mi hai mezzo. Però tu a me non mi dici niente. Allora io ho saputo anche che è un vaccino che piano piano ti fa morire perché vogliono decimare la popolazione perché ce n'è troppo sulla terra. Quindi. Sì, vedrai, lo stanno facendo per ammazzare più gente. Si stanno ammazzando uno con l'altro. Ne stanno ammazzando, anche che pensionati, bovaracci, per carità. E non pagare più la pensione, gli pagassi, hai compreso? La pensione le fanno i vaccini qui e là, cazzo manco la pensione si bigliano. E allora, no, non conviene più, ma vabbè, per carità. Ai clienti, oi, la Russia a casa strada dice, ci voleva un secondo tempo per prendere il vaccino, non è mesi 2 anni, la Russia l'ha trovato in 2 minuti. Cazzo, neanche la mia pensione fra un po' mi tolgo. Capito, Tony? Aspetta, vado con la giamba. Devo aumentare la potenza del termostato per il bagno. La potenza del condizionatore? No, del termostato dello scaldabagno. Perché non sale, se c'è della spia, ma tarda a scaldare l'acqua non è bollente, capito? Ce l'hai bassa allora? Io ce l'ho bassa. Ah? Un attimino, togli 2 viti e aumentare la potenza. E vai, va, già rimango qua in ascolto. E dai, che lo metto poco a poco. Marco, chiudi la finestra. Marco, ci sei? Chiudi la finestra. Chiudi la finestra. Chiudi la finestra. Ehi, che fischia, avanti. Pomponio. Fatto è col PL? No, negativo, che ho la mia 50, la mia grichellina qua. Vabbè, usa quella piccolina, l'antenna già esce lo stesso, poi ci fa, dai. E sto usando quello lì, infatti, adesso. Tanto non c'è un banuda, ma te sei geniali. C'è una attaccata al termosifone dentro casa, peggio un po'. Ah, perfetta quell'antenna, Tony, ma non avevo dubbi. Lascia quella lì e poi quel lavoro si fa, ma lo facciamo martedì, vediamo un po', visto che lunedì non ci siete. Ehi, domani fatevi andare fuori a buono. Anche martedì, dai. Sì, martedì si tolgono le fascette, si abbassa, se rifà il piede se ne mettono le fascette, non ci vuole niente a farlo. Sì, lo so. E con bella brusco al frigo, dai. Bravo, bravo, quello non deve mai mancare, bello ghiacciato. Scappa. Già, io ho assaggiato un ciccino assaggiato, quando volevo assaggiarlo io non ce n'era più, cavolo, era buono, eh? Beh, l'hai fatto tu di prima, Manuele. Ma c'era Manuele quello, e ho detto un attimino che devo aumentare la potenza presso stato, cioè il termostato dello scaldabagno. E mi ha detto sì, già sono qua, l'ho chiamato, boh. Era qui poco fa, lo stavo ascoltando, ma c'era gente, non poteva entrare. E c'era anche Gio Maria, e poi ha fatto fuori X, c'era gente. Non voleva partire alle 9, Manuele, no, partiamo alle 11, che è alle 9. Ehi, scusa che mi aveva chiamato mia moglie. Ehi, a che ora partite domani? Alle 11, claro, tanto. C'è l'appuntamento alle 4 del pomeriggio. Sì, ma va bene, tanto domani è giornata come oggi, ventilata, la temperatura è molto più bassa, capito? Si sta bene. Kappa, è Kappa del Rosmetro. Gio Maria, non c'è Gio Maria. Vabbè, Tony, dai, a casa rimani? Sì, stasera sì. Poi più c'è niente qua con la mia 50, la mia 25, poi più tardi l'accompagno. Sono qua. Oh, a fare quello che devi fare, dai. Un saluto a tutti, altrimenti ci sentiamo dopo, ok? Va benissimo. Manuele, sto chiamando, sono qua però boh. Siamo qua, ciao Cla. Ciao Manuele. Andava, tutto a posto. Tutto in ordine, dai, poi quando rientrate martedì ci organizziamo e si attaccano i fascetti. Si rifà il piede e si riprova, capito? Ok, dai. E con l'ambrusco e il frigo, bello fresco. Sì, beh, un bel lambruschino, però Manuele non ridimmo in dire guemo. Davvero? Io non bevo, già lo sai. Con un asio? Siamo ammazzati in varia, trovo una pomata dell'asso, non c'era dell'asso, ragazzi, abbiamo veduto tutto prima di mangiare. Cazzo, si parlava bello fresco. Ed è rimasto il vino più buzzinoso. Che schifo, cazzo, quello manca a cucinare, è buono, che. Davvero, me. Ma io pensavo che era... forse perché aveva un nome strano, Ah, guarda, quello veramente fa schifo, cancellalo. Si riprende un'altra di quella lì, bella fresca, e pranzando va molto, ma molto meglio. 2-3 bottiglie in freezer, andava bene. Alla grande, era veramente molto molto buono, gustoso, non ha fatto male a nessuno, siamo stati benissimo, alla grande. E poi vabbè, ti ricordo che la giornata era da 40 gradi, quindi ci stava un vinellino fresco frizzantino. E poi, più quello che hai cucinato tu, Cla. Veramente squisito, complimenti. La Tonia è una cazzata fatta. Quando vogliamo, roba veloce, sana e non farti male. È che mi è scappato il peperoncino, ma tu mi hai detto i bonitini uno. Già ci stava comunque, dai. Poi con l'insalata si è rinfrescato tutto. È passato. No, ma anche così a casa la facciamo noi con mia moglie, capito? Pomodorino fresco, basilico, cipolla. È buono, sano e non farti male. Va bene ragazzi, dai, vi lascio alle vostre chiacchiere, io mi allontano, lascio tutto acceso qua. Ci sentiamo dopo che qua c'è un casino nero, speriamo che si tolgano dalle balle tutti e mi lascino da solo. I tenuti per la partita, Paris Saint Germain e Bayern Monaco, da vedere, al canale 5, la finale di Champions. Ah, te la vuoi guardare a casa tua, no là? No, al canale 5, oh, siamo io, mia moglie, mia figlia e mio genero, l'altro ce ne sono tutte andate di volare le balle. E scappa. Vabbè Claudio, dai, buon coriccio allora, dai, ci sentiamo, a più tardi, avanti Manuele, sì. Ma il pari è finito, boh. Sì, avanti pari, dai, ci aggiorniamo dopo, ok, ci aggiorniamo dopo, dai, quando c'è un po' più di calma qua c'è un casino nero, ciao, a dopo. Va bene, ok, ciao Claudio, a dopo, ciao. 08. Ma sei due, mi intendi? È certo che ti sento. Che cazzo, come lo tocco, come si gira la il coso della WFO? Claudio ha fatto quel X, ha fatto. Adesso ci sentiamo più tardi, che se si sa che la partita. Che in caso c'è la figlia, il genero, la moglie e lui. C'aveva gente. Cappa. Andava, aspetta che metto la chiave qua. Almeno non mi si gira più il WFO. Ecco qua. La chiave. Sono i decimi. E qua c'è il blocco. Sono spostati la frequenza. Comunque hai visto quell'allarme per caso? Perché forse, ma vabbè. Cazzo c'è forse? Forse sì. Una potenza, Forse sì. Cappa. Ed è un buonito dentro casa. E che c'ho i cani, ce l'avrei messo fuori. Ma c'ho i cani, quelli come si muovono fa suonare. E dove lo metti fuori? Nel terrazzo? No, vicino alla porta si mette, capito? C'è uno giavizzina, un estraneo suona. Però coi cani che ho, quelli si muovono fa suonare. E le macchine che passano, le gonte? No, quello è laterale, non so se prende omnidirezionale. Non so se per agnosta, panoramico, non lo so. Ma comunque, niente, bisogna metterlo dentro casa comunque, dai. Dato che i cani dentro casa non ci sono. Ah vai, la bucciofura. E suona, i cani si muovono. Beh, lo sai che noi abbiamo l'allarme nelle scuole. Se si mettono la finestra aperta, entro in un cieco, fai suonare l'allarme, è un casino. Se no, te l'ho detto, se devi mettere. Lo collega al telefono. Quello non si può collegare al telefono, Manuele, si intende. Ehi, lo so che quello non si può collegare al telefono, ma metto un'altra cosa, quello che ti ho detto lo collega al telefono. Quello sì. L'usaccio. Mamma mia, oggi già si ripina un po', guarda, almeno si dorme stanotte. Ehi, con me sarà letto, dai, già va bene, che meno male. Anche domani dovremo viaggiare tranquillamente. Sì, domani ha detto che mette 45 gradi. Ah, cos'è 45 gradi, ma... Io voglio vedere il cazzo viaggiare con il benessere di Sarrandi. No, che già si abbassa il mio. Niente, forse mi avrà messo un po' di ceresine nelle guide, comunque... Ieri sera, verso le 7, l'ho smontato il pannello. Ogni casino, l'ho smontato, quelli sotto non ci sono riuscito, ho rimesso le viti, roba di... Niente, dove ti viti, ce l'ho rimesso. Tutto driccio driccio, tutto il traio dentro, che abbiamo la maglietta, gà. E poi che vedo gascio, bocuccuri, mamma mia. E lì perché ci sono il poggiolo pure, il poggiabraccio che devi svettare tutto quanto. E beh, mi devi bugare tutte baffuzze. E allora, anche dove c'ho, come si chiama, il mouse per gli specchietti, cioè, devo smontare anche quello. Il mouse sopra gli specchietti? Il joystick si chiama. Io ho gli specchietti elettronici. Ehi, e dove ce l'hai? Non ce l'hai vicino a cose della... condizionatore d'aria? No, è tutto quanto vicino a... collegato con lo sportello del pannello. Ah, ce l'hai lì nella fiancata tua. E allora? E devi togliere anche quello lì, infatti l'ho tolto anche ieri, ho tolto, mia casino. Mamma mia, ero già francamente, vedo, con un cazzo di vera. Me lo posso immaginare. Quindi... Ecco, io ho un'antenna per TV per casa, piccolina piccata, dicevi. Ma com'è questa antenna? Piccolina per casa, poi si mette sulla televisione, sulla finestra, colleghi 220. Ah, il trasformatore? E dovrebbe avere un trasformatore piccolino. Ma quelle vecchie sono, che hanno le due antenne? Più o meno così. Vabbè, una lampadina. Ce l'ho sull'armadio, adesso l'ho vista con la scatola, perché se non ne posso nulla. Perché prima qua la televisione è consulta abitare qua, non si vedeva niente, allora ci ho fatto vista. Peggio della buccia, allora mi sono fatto tutto l'impianto, veloce, e me l'ho già fatto, ma com'è? No, lì no, premi perché il cazzo è coperto. È un casino. Sì. Ma vabbè. Lo sai quale devi prendere? Quelle antenne da camper. Adesso già funziona. Cambia luce, rimane così. Dopo vedo te le prendete, tagliamo che mi taglio lunghe delle mani, che l'ho già lunghetta, che ancora mi spettano. Ah, vicino da Roma, Rugosa. E dopo, vicino così. Cosa hai detto dopo? Mi prendo, taglia unghie e mi taglio lunghe delle dita. Se vuoi te taglio io. Asco, ma ti ho passato, ci ho spugnato in campo. Se la batteria in varia. Fammi 6 millimetri. Sì, mi rompi. Come ti va a tagliare, poi abbassa 3, puzzino su. Ma che vanno bene, Tony, fidati di me che andano belli così. Che sì, non te le tagliava neanche, non ce la facevano neanche a prenderli. Ma cosa si dice? Fidati di te. Non le prendeva. Ah, ma non lascio bene, cosa vanno bene i capelli così? Se non ne ho capelli, ma è tutti tagliati. Sì, non avevo ma con prima. No, prima ne avevo visto le matasse che me ne sono uscite, gà. Cazzo, dalle basette dietro ne avevi un bel. Perché crescono un bel al caldo. Cazzo, ma non andava, non si frescava. Lo so, adesso per il fame devo aspettare un mese, gà. Ma cosa si dice, mi crescono subito. Un centimetro al mese. Me ne posso ne a due ghetti io. Se non hai merito, cazzo, ma sono un cucuzzo al centro. Appunto, me ne posso ne a due ghetti. Quando devo vedere che mi crescono un po' come le taglio. Poi c'è il verro, nell'acqua di crescere bene, se no mi prendo a capo. A me non mi crescono più. Cazzo, prima mi lavi longhi di bene. Già ti cresci. Ma com'è che hai fatto questo barboncino che hai fatto a me? E cosa? Ah vai, ma. Cazzavi un gaccio, va via, ho fatto me ne andare, dai, intanto mi cresce subito. Ma prima per passare la macchinetta te l'hai sfoltita con la forbice? La barba? Tutta macchinetta ha giovato, dove? Sì, capita, e non ti ha trattato? No, tutta macchinetta e poi passo il rasoio normale, no, lascio la barba. Ma non è che ti ha buttato un bello nel lavandino? No, ma se sta scherzando, che se la va, così che si sente a tutto. E allora, qui c'era un gomitolo di lana, che? No, nel gabinetto. Cazzo nel lavandino. Lavandino sì, già scende lo stesso, però piano piano si accumula. E allora si tasa tutto in casino. Puoi chiamare a Pip, autospurgo. Sì, cazzo, anche io volevo la coda smontare un flessibile sotto. E vabbè, beh, se è tutto interno poi è un casino. No, se dove si ferma è dove c'è la curva del flessibile. Io ho quello spiralato. Niente sifone, ma che pigio con il sifone? Tu ce l'hai diretto? Sì, perché se io metto il sifone poi bisogna solo andare a pulirlo, invece così è diretto, c'è la mia luce. Diretto va bene, perché non c'ha curva né niente, non si blocca niente, non si ferma nulla. Scarica lo spiralato, va benissimo, con le pratiche bianche. Ma va, se offendi chi ti va per macinare pure. E cosa? Quando butti l'acqua nel lavandino ci sono quelli per macinare, la roba che cade, no? E cioè quelli per macinare? Tu sai che in America c'hanno quei cosi nel sifone del lavandino, quando scende l'acqua, dove scende l'acqua? Sotto, dentro c'è un coso a forma di lame. E quello lì, quando scende l'acqua, gira quello lì. E se scende roba di mangiare, roba grossa, te la taglia a pezzi. Un tipo frullatore c'è. Una cosa del genere. Quello lì l'hanno fatto proprio per l'umido pure. Per buttarci l'umido, la fa a pezzi e scarica direttamente nei cessi, capito? Perché tu, le braghe vanno a finire, tu, cioè nel tutto nel tubo vanno a finire la braga è il tubo centrale del gabinetto, quindi. Sì, in America c'è quello lì, se l'abbiamo infatti no che fa una cosa buona. E cosa ci faccia il suo macchinario? Torna a comprare un uovo. E cazzo Tony, si caghi a pensare se si fascia, cazzo non più più nulla. Vabbè. Andrà bene. Quindi a ballare non ve nessuno. Allora. Marco 27. Prima sul 23 vedevamo un crescente, che so, vedi? Fisca che ti passa. C'è qualcuno sul 23? Non ve nessuno, no? Tutti musci, so. Ah, vai niente, ciao, ma vedi. Eh? Prova a chiamare, così ti risponderà. Non aggiungi mai, dove nessuno. Qui c'è abbastanza il 2. 9.40, aggiungi il caso per due la 2. Torino! Dov'è Marino? Torino! Ehi! Torino! Chi è? Non lo sento. Mezzo al QRM. Adesso Torino ha giù preso poi buco. Per mezzo al QRM. Sto usando l'antennino, non posso ascoltare bene io, cara. No, arriva basso anche da me, che va già antenna sobra. Era lì, solo portante. Cos'è, me? Solo portante è uscito. Ehi, raga, è buono portante. Non ci fa neanche il guriguri. Mi fa solo ridere. Ah, signori, gente, sono bubù. 7.05. E allora che prepariamo, mangiamo un poco. Cazzo, vediamo a mangiare se ben sento. E allora? Sì, che è un po' ingrassi, che devi dimagrire. No, cane cavallo d'ondolo, va bene. Se via, si salata. Come la stai facendo il parello? La riapprezziamo? Sì, io. La clarita ci ho fatto. Buona, Emanuele. Io l'ho fatto 2 ore. Tutto è buono, tutto. Sì. Cane e cavallo è buona, sì, sempre se tenera, specialmente. Ah, guarda, già mi ha dato un bel pezzo che non te ne fa a fette, e infatti lo so, ma tagliato, l'ho detto, è un bel tenere il cagarri. Dove l'hai preso? All'invia Pascoli? No, me l'ha dato Gianni, ma c'è lei che accompagno. Ah, sì, me l'avevi detto. Invece io la prendo lì a latte dolce, ed è tenera lo stesso. Ui. Niente, dice che spiega il baracchino, non c'è nessuno. Cos'è, Tony? Aspetta il baracchino che non c'è nessuno. Si vede il baracchino? Ho spento il baracchino. Non c'è nessuno, no. Non c'è cazzo che. Bah. Antendilo QRM. Antendilo QRM e basta, boh. Ma non c'è nessuno, anche Riccardino, così è fuori. Non c'è? Riccardino fuori cosa? In villeggiatura? Ne so, da me tu dici. Boh, sei in villeggiatura, via da Eddo. Vabbè. Ah, ma la rientra è do bur, dare veri. Beh, certo. E ti c'ho solo domani e basta, Manuè. E martedì si rientra al lavoro. Ah, tu rientri martedì? Cappa. Che se ne è fatto, una guida? Quando ha chiuso l'azienda, boh, io mi costavo le ferie, non ho capito. E il servizio posto che ho fatto, ho recuperato altri due giorni di ferie, me. Hai fatto una settimana, ti sto dicendo. E l'azienda ha chiuso la guida, boh. Cazzo, ma lo bastano per salire lì. Emanuele. Ma ero 4 mesi a casa, me. Già lo so che eri 4 mesi a casa, ma eri in infortunio. 2 mesi di infortunio, e sul lavoro, e 2 mesi per coronavirus, pagato al governo. Via da te. Poi se vuoi chiudere altri 2 o 3 mesi non c'ho problemi. A me va bene lo stesso. Cos'è, Tony? Se poi vogliono chiudere altri 2 o 3 mesi, a me va bene. Beh, se sei bagando andava sì. Allora, tanto, già mi paga niente. Poi senti se sei bagato, a voi. Se ti devi dare 2 mesi o 3 mesi che si vi è. E allora, via. Dai che ti scoglione puoi stare sempre a casa senza far nulla, capito? E chi si va? E chi si va che devi stare a casa? Per la vita che c'è manca 3-4 mesi a casa, senza il figlio. Troppi contagi. Mi credi tu, ve la dai, ne riparliamo, cosa ne va la scittor. Già lo so, Manuè. È tutto un caos. È tutto un casino in Italia, non è un caos, un casino, eh. Se non si rivocano tutte le caglienti, c'è marmaglia, credo che, poi, ma va a vedere che si ci muoiono i curi con moi, la buia, no? Oh, comunque intanto stai tra un po' di venticello, vedo la teta che si muove, che bello, a meno 20 nuovo. Sì, si sta bene, oggi è malestare la sicurezza di bene. Oggi sta bene. Si respira, è troppo caldo questi giorni ha fatto a casa. Io poi mai vecchio mi ha detto sì, cazzo caggio, caggio, caggio, che cavolo, boh. Oh, mamma mia, cazzo, tutto gonfio so. Oh. Meno mia, vai da sanguinaccio. Mamma mia, fanno male le gambe tu nel caso. Non ce la faccio oggi. Oggi lo stesso mi facciamo male. Ehi, oh, domani devo me. Quindi, arrivati siamo. Cazzo, speriamo. Cazzo, se mi vai a riprendere in candy. Che Dio ti senta, Manuè. Vedremo pure a me che io devo travagliare a marcia. No, vedrai che già fa la cosa, dai. Perché anche, cazzo te l'ho detto, l'ha fatto altra gente che non ce la faceva neanche a piegarsi. E farle il massaggio e mettere quel cazzo di agopuntura, cazzo se ne è pesato se ne sape durare. E spero che dura. La canale per Montrescia, da me, è buia. Cosa è sonno, va? No, fame. Cazzo, e vabbè, tanto la caricavato già così subito. Sì, una girata la cramata e via, e tu va mangiare. Non la cucinare troppo che ti si secchi. Lo so, lo so che Rosata lo sa. Rosa, ma stai preparando? Si sta preparando. Uiuiui. Mamma mia, pancia mia, fatti capanna. E poi bisogna che ci polpetti un cimbone. Devi fare un po' quel sanguinaccio, buh. No, non è fatti il sanguinaccio, ce l'ho fatto chi dalla mica tua. Vabbè, uia. Adesso sanguinaccio, che non mi ha detto sanguinaccio, cosa cazzo è che buccaria? È il sangue del maiale, ci fa lo zucchero, l'uva passa. Cacao, ma è proprio il casino che è. Sì, allora manco lo colesterolo da San Milli. Un tempo sì, ma adesso non è più per noi. È cambiato Stotos. Aiutai, Giomari, dove sei? Esce una pizza, Giomari. Manuè, io me ne piso, Sono sdraiato nel letto, ma sono convinto che sarà questo abusato. C'è cucato. Lui, dai. Se più tardi ci sentiamo. Ehi, dai, ci sentiamo più tardi. Se non ci sentiamo, già ci vediamo domani mattina, dai. Ma perché tu uscire devi? No, vuoi uscire? Se sei il cazzo non vado a camminare. Allora ti chiamo io, dai. Verso 9:30. Ehi, cazzo non vado a magari si può camminare, decido. Se sono con il cazzo della giurita, sono con mesi, non sono crescendo a lungo. E anche a me fa male. Tutto. tutto il culo che fa male. Magari, cazzo, sono un mese, più di un mese, più di un mese sono così senza sci. Cazzo, prima uscivo, andavo, cazzo, da via Pace, mi facevo tutto via l'Italia, su, via Rockefeller mi faceva, piri. Ah, vale, no, cazzo, mi muovo, dai, no, che arrivano, mi faccio dei marinacchi. Cincomì, adesso ti metto la portata. Allora spengo la radio, faccio prima, dai. Ciao Rosa. Oh, ciao Manuè. Ehi, noi di a Paola, pure noi che già venne che si può una pure importante. Ehi, comincia a cucinare, dai. Oh, yeah. Che bello, di compagnia, che bello. Dai, ci sentiamo l'opportunità, buona cena con tutto. Ok, adesso lo metto a caricare questo cincomino piccolino, sarà che scarico. Ok, più tardi Manuè, ciao a boccare quando lo fai, ci sentiamo, a dopo. Ehi, ciao. Ciao.